che cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille. C'era una volta, oh, se non m'avessero detto mai che le fiabe son storie non vere, ora là io sarei. Cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille. C'era una volta. Avessero detto mai che le fiabe son storie non vere, ora là io sarei. Cara Maestra ve Il Mio Regno dinledik Luigi Tenco'dan. En büyük tutkum henüz gerçekleşmemiş olan şarkılarım aracılığıyla insanlara kim olduğumu anlatmaktır diyen Tenco, biyolojik babasını hiç tanımamış. Tenco soyadı ise annesinin önceki evliliğinden alıyor, Giuseppe Tenco'dan. Ama Tenco'nun gerçek babası olmadığını keşfettiğinde bu hem çocuğu çok üzüyor hem de Giuseppe Tenco'nun ailesi içinde oldukça şaşırtıcı bir bilgi oluyor. Ve bu vesileyle de yeniden annesiyle birlikte şehir değiştirip Cenova'ya yerleşiyorlar. Biz şimdi 1962 yılından devam edelim parçalarda. Come vedono gli altri ve 1963 yılından yine sansürden nasibini alan Una brava ragazza şimdi Açık Radyo'da. Ad essere un'altra persona per vedere me stesso come mi vedono gli altri. Vorrei sapere qual è l'impressione che prova chi non sa per nulla quello che faccio e che sono. Quando cammino, pensando ai fatti miei, quando sorrido per chiedere qualcosa,

perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata. Come vi vedono altri, ve una brava ragazza di Nedik Luigi Tenco'dan. Giovanni Pascoli ortaokulunu bitirdikten sonra bir dönem Andrea Doria klasik lisesine gidiyor ve arkasından bir fen lisesi olan Galileo Galilei'ye gidiyor. En büyük oğlu Valentino'dan büyük beklentileri olan annesinin Luigi için de bazı planları var. Lisenin son döneminde ona bir özel ders aldırmaya başlıyor ve onu Sandra Novelli emanet ediyor. Bir dönem evinde de ikamet ederken Tenco piyanoyla tanışıyor ilk kez. Ve bu tesadüf Tenco için beklenmedik bir tutkuya ve doğal bir yeteneğin keşfine de vesile oluyor. Şimdi Luigi Tenco'dan Ah l'amore, l'amore ve Se potessi amore mio radyonuzda. Ah l'amore, l'amore, quante cose ti fa fare l'amore. Ah l'amore, l'amore, quante parole ti fa dire l'amore. Quanta vita, quante ore regalate all'amore, quante frasi dette al vento dedicate all'amore. All'amore, l'amore, quanti sogni ti brucia l'amore. All'amore, l'amore, quante notti non ti lascia dormire. E ti senti più grande del mare, e ti senti ancor meno di niente. Poi un giorno t'accorgi che è finito il tempo dell'amore. Giuri che ormai sei rimasto deluso, che non crederai più all'amore. E sei fuori del mondo. All'amore, l'amore, chiudi gli occhi e ti lasci sognare, e ti trovi a inventare poesie, a sognare le valli lontane dove il sole raggiunge la luna e le parla d'amore. Non è gran cosa. saperti amare come una regina, ma purtroppo son quel che sono. Se potessi, amore mio, per non sciupare all'amore, l'amore, ve se potossi, amore mio, dinledik Luigi Tenco'dan. Genç Tenco, sadece doğuştan gelen yeteneğiyle değil, aynı zamanda azmiyle de müzikal başarısını katmerlendiriyordu. Kendi kendine gitar, klarnet ve saksafon çalmaya başladı. Ama bu müzik tutkusu ailede pek iyi karşılanmadı. Hatta amcası Tina Tenco o dönemi şöyle anlattı. Luigi Tenco'nun olağanüstü bir hafızası vardı. Bir şeyi mükemmel bir şekilde hatırlaması için bir kere okuması yeterliydi. 7. sınıfta karmaşık diferansiyel denklemleri büyük bir özgüvenle çözüyordu. Annesi ise böyle bir yeteneği boşa harcamak suç gibi geliyor diyordu. Onu bir mühendis ya da fizik, matematik profesörü olarak hayal ettik. O zamanlar şarkıcılık bir meslek olarak görünmüyordu. Şimdi yine Tenco ile devam edelim. Önce Non hai capito niente, arkasından da Vedrai, vedrai, şimdi radyonuzda. Tu non hai capito niente di come sono io e di come ti amerei di più. Se una volta fossi tu a cercarmi, tu non hai capito niente, stai lì ad aspettare. Devo sempre essere io il primo a chiedere la poi, appena ti stringo una mano tra le mani, allora tutto cambia, tu diventi uguale a me. Ma è già un'altra cosa, non è più la stessa cosa, è il primo passo che vorrei da te. Tu non hai capito niente, ma forse capirai quando un giorno mi sarò stancato di te che aspetti sempre. Quel giorno ti farò aspettare. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai, vedrai. Non son finito, sai, non so dirti come, quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene, mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Tu non hai capito niente, ve vedrai vedrai dinledik Luigi Tenco'dan. Luigi Tenco, İtalyan müzik dünyasındaki ilk çıkışını Giampiero Reverberi ve Enzo Iannacci'nin de aralarında bulunduğu I Cavalieri, Şövalyeler albümüyle yaptı. Bu dönemde Gigi Mai takma adını kullanıyordu. 1961'de ise Quando adlı gerçek adıyla ilk single'ını çıkardı. Şimdi önce Luigi Tenco ve I Cavalieri'den Mi Chiedi Solo Amore'yi, arkasından da Tenco'dan Quando'yu dinliyoruz. Sempre, sempre io t'amerò, senza te non vivo più. Quindi, quindi non dir mai più che vuoi solo un po' d'amor. Per me tu sei tutto il mondo, sei la luce dei miei occhi. Perché, dimmi perché, chiedi soltanto un po' d'amor. Ecco invece, ecco, tutto il mio cuore lo do a te, soltanto a te. Sei la luce del mio cuore, perché, dimmi perché, chiedi soltanto un po' d'amor. Ecco invece, ecco, tutto il mio cuore lo do a te, soltanto a te. Quando il mio amore tornerà, da me. Nel cielo una stella splenderà, s'è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amor fuggì da me. Quando il mio amore tornerà da me, nel mare una perla nascerà, son tutte le lacrime che ha pianto la stella nel veder solo e triste il mio cuore. Quando il mio amore tornerà da me, nell'aria un violino suonerà, la musica dolce scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà. Cavalieri ve Luigi Tenco'dan Mi Chiedi Solo Amore ve Tenco'dan Quando radyonuzdaydı. Eylül 1964'te Ezio Leoni'nin müzik düzenlemesini yazdığı O Capito Che Ti Amo şarkısı yayınlandı. Aynı yıl bu parça, yani Seni Sevdiğimi Anlıyorum albümü, ünlü bir pembe dizi olan El Amor Tener Care de Mujer dizisinin de film müziği oldu ve böylece Tenco'nun şanı okyanusun diğer köşesine taşındı. Biz önce O Capito Che Ti Amo, arkasından da La Ballata dell'Amore'yi dinliyoruz. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare,